punto, punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Un buon 2011 a tutti voi cari ascoltatori di Radio 24, naturalmente da me e da tutti i colleghi di Radio 24. Oggi ripartiamo, ma in realtà nel nostro programma dobbiamo occuparci della settimana che è stata, dunque la 52esima ultima settimana dell'anno appena concluso. E allora noi partiamo da quello che è stato definito un accordo innovativo, ma anche un'inaccettabile deroga ai principi consolidati del diritto sindacale, a quella che è stata definita in sostanza una nuova alba nelle relazioni industriali o da altri il tramonto di un sistema di rappresentanza. Sono questi di fatto gli estremi dell'accesa polemica scaturita mercoledì dalla sottoscrizione dell'accordo tra Fiat e alcuni sindacati per la Newco di Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli. L'accordo recepisce gran parte del contratto dei metalmeccanici applicandola all'attività di assemblaggio auto. Tra i punti salienti dell'intesa tra Fiat e sindacati, esclusa la FIOM, vi sono un incremento salariale medio di 30 euro lordi e un nuovo inquadramento professionale che consentirà una maggiore facilità di promozioni. A partire da gennaio saranno progressivamente assunti 4.600 dipendenti e nel giro di un anno e mezzo il sito produttivo andrà a regime con la produzione della nuova Panda per un investimento da parte della casa torinese di 700 milioni di euro. Così il segretario della FIM CISL Vitali. Si aumenta la paga base spostando delle voci retributive che già c'erano. La cosa importante è che questo dà effetto di maggiore salario sullo straordinario e sui turni. Il tutto a fronte di un aumento della produttività, turni più elastici e pause ridotte. Pomigliano ha un futuro, spiega dalla Wilm Sgambati. Questa cornice fa ripartire ai primi di gennaio le prime assunzioni e nel 2012 avremo finalmente la produzione della Panda a Pomigliano. Soddisfatti i ministri del welfare Sacconi e dello sviluppo economico Romani, bene l'intesa, dice la maggioranza, diviso il Partito Democratico, no dalla sinistra. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Un netto rifiuto è invece giunto dalla FIOM, che aveva respinto anche il precedente accordo del mese di giugno. Da qui l'origine dunque della questione, essendo lo stabilimento di Pomigliano una Newco, per il momento non aderente all'organizzazione di Confindustria, alla sua contrattazione non si applica la norma introdotta nel 93 che prevede la possibilità di costituire RSU, cioè rappresentanze sindacali unitarie, anche per i sindacati non firmatari di contratti collettivi applicati in azienda, purché raccolgano in tal senso almeno il 5% delle firme dei lavoratori. 8 ore di sciopero generale dei metalmeccanici il 28 gennaio. Così il comitato centrale della FIOM, con 102 voti favorevoli e 29 astenuti, ha deciso di rispondere alla Fiat dopo l'intesa tra il Lingotto e le altre sigle sindacali per lo stabilimento di Mirafiori, ultima circostanza in cui le tute blu della CGIL si sono chiamate fuori. Secondo la FIOM, dopo Pomigliano, la Fiat ha dimostrato nuovamente di voler realizzare in Italia un piano industriale autoritario e antisindacale. Sciopero dunque il 28 gennaio con manifestazioni regionali a supporto della protesta e altre iniziative di sensibilizzazione, tra cui una raccolta firme per dire no agli accordi siglati e per un contratto nazionale senza deroghe. La FIOM dunque decide di andare avanti per la propria strada, ma il segretario generale Maurizio Landini non rinuncia a lanciare un messaggio agli altri sindacati. Il problema non è solo che la FIOM non firma, è che anche i sindacati confederali, FIM e UIM, che firmano un accordo così, stanno cancellando con le loro mani la loro storia e il loro futuro. Sarebbe utile che si fermassero. Nicola Filippone, da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È la fine di un sistema di rappresentanza, è davvero un terremoto, un'esplosione, così commenta il sociologo dell'industria, docente presso la Sapienza di Roma, Aris Accornero. Parole durissime invece sono state pronunciate da Giorgio Cremaschi, presidente del comitato centrale della FIOM, rivolto ai suoi colleghi sindacalisti. Dice: sono fuori dalla cultura democratica sindacale dell'Italia costituzionale, per noi non contano più niente. Il riferimento riguarda naturalmente anche Luigi Angeletti, che sentiamo invece intervistato a Focus Economia da Valeria De Rosa. Io credo che Marchionne abbia banalmente e semplicemente fatto quello che deve fare un amministratore delegato di un'impresa, cioè cercare di negoziare le loro migliori condizioni. E Farina e gli altri segretari dei metalmeccanici hanno fatto esattamente la loro, quello che devono fare, cioè negoziare al meglio le condizioni, al meglio per i lavoratori. E alla fine bisogna trovare un compromesso tra queste due legittimi, come dire, aspettative, no? L'ultima domanda sul futuro, diciamo così. Dunque, Marchionne ha detto Fabbrica Italia vale 20 miliardi, però fino a questo punto si parla solo del miliardo di Mirafiori e tra l'altro dal 14 febbraio parte la cassa integrazione straordinaria. Allora, come dobbiamo conciliare queste cose e come il sindacato intende anche fare pressione? Perché voglio dire, è un progetto che dovrebbe valere 20 miliardi a fronte poi di, vediamo, uno stabilimento aprirsi in Brasile. La cassa integrazione è pagata dalle imprese e dai lavoratori. La cassa integrazione non viene pagata dalle tasse dei cittadini. Le imprese ogni mese mettono i soldi in un fondo dell'INPS che servirà a pagare la cassa integrazione quando serve. Seconda questione, il patto che noi abbiamo fatto con Marchionne non è sui miliardi di cui noi poco ci intendiamo e devo anche aggiungere che poco ci interessa. Il patto è che lui produca in Italia 1.400.000 macchine. Per questo per noi significa la Fabbrica Italia. Produrre, siccome le auto non si producono da sole, questo per noi significa garantire non solo gli attuali posti di lavoro, ma anche incrementare i posti di lavoro nell'industria automobilistica. Che poi questo comporti investimenti di 20, 25, 18 è francamente una cosa che di scarso senso sindacale. Quello che invece ha molta importanza dal punto di vista sindacale è sapere se in Italia torneremo a essere un paese che produce auto a un livello decente e non essere come oggi, per cui noi su ogni auto che, anzi, compriamo tre auto e una sola è prodotta in Italia, il che significa finanziare 200.000 posti di lavoro all'estero. Oscar Giannino se ne è occupato giovedì, ovviamente a partire dalle 9, dando spazio come sempre al punto di vista degli ascoltatori di Radio 24. Il sindacato, secondo me, paga il prezzo di una distrazione colpevole che dura da 60 anni. Il sindacato e la sinistra in genere. La Costituzione è come una coperta troppo corta o troppo lunga. La parte che riguardava la normativa su come deve essere organizzato il sindacato e come deve funzionare non è mai stata sistemata. Gli articoli 39 e 40 non attuati per legge. La delicatezza. Non attuati, esatto. E oggi si pagano le conseguenze di questo, perché l'unico principio santo in democrazia è che chi ha più iscritti rappresenta i lavoratori. Il fatto di dire se non firmi è una forzatura che tenta di risolvere questa mancanza, questo difetto, l'ennesimo di questo paese così distratto che si guarda i piedi e non ha un futuro finché non provvede. Francesco da Rimini come la pensa invece? Che oggi con la crisi che c'è è molto meglio meno diritti e più lavoro. Poi dopo non siamo competitivi, dobbiamo diminuire e eliminare il più possibile costi, perché abbiamo dei costi troppo alti. A volte menzionano la Germania, fanno i paragoni con la Germania. La Germania ha più materie prime, più tecnologia, uguale meno costi. Quindi noi siamo in una tenaglia di chi ha meno costi perché è più avanti tecnologicamente e i paesi Cina, India, paesi dell'est che hanno la manodopera molto più bassa. Quindi noi siamo in mezzo a una tenaglia che se non diminuiamo i costi e se non cerchiamo, ripeto, di diminuire i diritti e creare più lavoro, quindi brava la Fiat. Chiarissimo Francesco, però lei ammette che si tratta di meno diritti. Sentiamo ancora Roberto da Reggio Emilia, poi facciamo il primo giro con i nostri ospiti. Roberto, come la pensa invece? Sì, buongiorno a tutti. Io la penso in questo senso, la prendo come visione un po' ampia. Io credo che Marchionne stia chiaramente facendo una forzatura che porta ad uscire da quello che è il perimetro di relazioni sindacali e anche, se vogliamo, istituzionali e di democrazia, mettiamola un po' in senso ampio. Credo però che nel momento in cui, questa è l'unica certezza che ho, questo sistema Italia ha dimostrato dei limiti, pur non essendo essendo altamente imperfetto, ma ha dimostrato dei limiti, e sono dei limiti di obsolescenza, cioè è un sistema di relazioni che va rinnovato. Credo che quantomeno il beneficio del dubbio di dire lasciamo che si provi questa cosa e a posteriori valuteremo e giudicheremo che tipo di risultato produrrà, valga il prezzo, diciamo, del biglietto, valga quindi il prezzo della forzatura sostanzialmente. Ancora un parere è quello di Domenico De Masi, sociologo del lavoro. Ma io penso che siamo in una tagliola, ma tutti, lei, io, la CISL, la FIOM, siamo in una tagliola. Questa tagliola è data dal fatto che da una parte c'è la globalizzazione e l'immigrazione. Sono due fenomeni che tagliano naturalmente le gambe ai sindacati. Dall'altra c'è il fatto che comunque globalizzazione e immigrazione fanno sì che qualunque lavoro parcellizzato si faccia in Italia da parte di italiani è comunque in una situazione di inferiorità. Cioè altri paesi, quelli a bassissimo salario, sono comunque competitivi. C'è poco da fare. Pomigliano non sarà mai competitiva, anche se si lavorasse 24 ore al giorno con fasi di 5 secondi e con nessuna pausa. L'altra cosa poi è che una catena di montaggio non funziona se c'è il 51% d'accordo. Basta un lavoratore in una catena di montaggio che blocca tutto. Questo è il tallone d'Achille della fabbrica fortemente razionalizzata. Quindi il 10%, il 5% dei lavoratori iscritti a un COBAS o a una FIOM che dir si voglia, comunque può bloccare tutto. Questa è una tagliola, perché naturalmente Marchione sbaglia, la FIOM sbaglia, la situazione complessiva fa sì che sbagliamo tutti e che la soluzione vada cercata su un piano completamente diverso. Punto e a capo. L'ex presidente del Brasile, ex presidente proprio da questa mattina, Luiz Inácio Lula da Silva, non concede l'estradizione all'Italia di Cesare Battisti. Ma non si tratta comunque dell'epilogo di questa vicenda. La richiesta di Lula di tenere Battisti in Brasile dovrà essere rivalutata dagli 11 giudici del Tribunale Supremo brasiliano, ove l'Italia intenda presentare un nuovo appello, cosa che sembra scontata. Il Brasile poi si trova in mezzo al guado, in mezzo a una fase di trasformazione. Da questa mattina, infatti, la presidente Dilma Rousseff prende il seggio, l'incarico, ruolo che è stato appunto di Lula negli ultimi due mandati. La nuova presidente dovrà completare la rosa dei suoi ministri, insomma, dovrà organizzare un esecutivo che potrebbe anche assumere posizioni diverse. Intanto, nel contestare la decisione di Lula, quella che già appariva la probabile decisione di Lula, Nabor Buloes, legale che rappresenta il governo italiano nella causa sull'estradizione, spiegava che presenterà appello. È fatale che si vada avanti, ha detto, ma per dire come e in quale modo aspettiamo di leggere nel caso le motivazioni che accompagneranno la richiesta di mantenimento di Battisti in Brasile. Ma sentiamo una scheda su questa vicenda. Militante dei PAC, proletari armati per il comunismo, Cesare Battisti, 56 anni, una vita tra carcere e fughe in mezzo mondo. Nel 1985, con sentenza poi confermata in Cassazione, viene condannato in contumacia all'ergastolo per 4 omicidi avvenuti alla fine degli anni 70, omicidi dei quali si dichiara innocente. Si trasferisce prima a Parigi, poi in Messico, dove fonda il giornale Via Libre. Una volta tornato in Francia, nel 1990, grazie alla cosiddetta dottrina Mitterrand, che garantisce asilo politico agli ex terroristi, si rifà una vita e diventa uno scrittore noir di successo. Nel giugno 2004 il Consiglio di Stato francese accoglie definitivamente la richiesta italiana di estradizione e Battisti fugge in Brasile. Nel marzo 2007 viene arrestato sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, ma il governo brasiliano gli concede l'asilo politico. Uno status, quello del rifugiato, che il 18 novembre 2009 la Corte Suprema brasiliana considera illegittimo. La più alta istituzione giurisdizionale del paese si dice favorevole all'estradizione di Battisti in Italia, ma lascia l'ultima parola al presidente Lula. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alberto Torreggiani, 46 anni, figlio di Pierluigi, ucciso nel 79. Paralizzato da quel giorno, dal giorno in cui il padre cadeva colpito a morte di fronte al suo negozio romano, esplodendo anche un colpo che ferì proprio il figlio. Sicuramente una delle azioni è quella di ripristinare la legalità e mettere questi personaggi, per cui questi che voi chiamate ex terroristi, che in realtà non lo sono perché non ha ancora chiesto perdono, per cui non può essere definito ex, che scontino la loro pena. Adesso, ora più che mai, ho questa decisione perché è l'unico modo, quanto sembra, è proprio come dicevi prima, di chiudere una pratica, un argomento, un periodo di cui continua a esserci un eco, e questo eco che poi porta a delle risonanze un po' strane, un po' particolari sempre qui in Italia, quando invece in altri paesi, come abbiamo visto, chiuso il periodo del terrorismo, si è chiuso definitivamente, forse in un silenzio tombale, forse in comunicazione, di dialogo tra le parti, ogni paese ha fatto il suo. Il problema è che qui invece non si vuole avere la realtà di capire che una persona che commette un delitto, la legge parla chiaro, deve essere punito per quel delitto, nient'altro. Qui non si fanno caccia alle streghe, non si fanno ritorsioni di vendetta personali o quanto. Ed è quello che ho cercato di spiegare, di far comprendere anche a personaggi. Io sostanzialmente l'ho conosciuto, con lui abbiamo un buon rapporto, per cui anche il rispetto delle idee che abbiamo uno con l'altro. Per cui dico, però, a personaggi come Sassolenti ed altri, per spiegare come mai faccio questa lotta e quant'altro, ecco. Sassolenti, ovviamente uno poi si incazza un po' di più, perché dico, questa è una cosa per il culo e basta, cioè non è, dico, dove cavolo vai a sbattere, ti senti veramente un po' Don Chisciotte, e allora cerchi altre soluzioni che credo che vi dovrebbero mettere in atto. Le soluzioni, appunto, quelle di appellarsi direttamente agli italiani, quindi. Ma credo quella che... sicuramente, sì, perché... Cioè, il pugno di ferro, punto... immagino il pugno di ferro che diceva lei ieri, non è un pugno di ferro nel senso di violenza, è un'azione più coordinata, più ampia. Esatto, facciamo una piccola analisi, mettiamola in questi termini. L'ipotesi che magari negli anni 70 questi ragazzi erano incazzati neri con il sistema, non funzionava, non le piaceva, e volevano cambiare, magari con ideologie, con pensieri, sai, celestiali, no? Facciamo la rivoluzione, cambiamo il mondo, miglioriamo. Ci hanno provato, si sono incazzati e hanno trovato che poi il sistema era quello delle armi. E quello che è stato il loro risultato. Ora, io voglio fare la stessa cosa, a vedere che le rivoluzioni possono essere fatte anche senza le armi, senza la possibilità di dover fare del male a qualcuno, ma soltanto andando in piazza, dimostrando o silenzio o gridando il proprio dissenso a una situazione dove pochi vincono contro la maggioranza. Quando tutti sono d'accordo, tutti nel mondo, che in un gruppo è la maggioranza che vince. Punto e a capo. Una funzione religiosa alle 5 del mattino, prima dell'alba, per le 5 vittime della strage di Filandari. Filippo Veltri. Protetti da un imponente servizio d'ordine, si sono svolti stamane all'alba i funerali delle 5 vittime della strage compiuta nella masseria di Filandari. I feretri sono giunti alla chiesa Maria Santissima del Potere della frazione Scaliti del piccolo centro del Vibonese, direttamente dall'obitorio alle 4:30 di questa mattina. Alle 5 è cominciata la funzione che è stata officiata dal parroco Don Giuseppe Lopresti. Era stato il questore di Vibo Valentia nei giorni scorsi, per motivi di sicurezza, a disporre che le esequie si svolgessero in forma privata e senza corteo funebre. Una dopo l'altra, le bare di Domenico Fontana, 61 anni, e dei suoi 4 figli, Pasquale, Pietro, Emilio e Giovanni, sono entrate nella chiesa dove ad attenderle c'erano una trentina di familiari stretti. La salma di Giovanni, la più giovane delle vittime, è arrivata in una bara bianca ed è stata l'ultima ad entrare nella chiesa. All'uscita dei feretri i familiari hanno tributato un applauso. Le salme sono state quindi trasferite nel cimitero di Filandari per la tumulazione. Filippo Veltri, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Filandari. Ecco, quindi una pagina in qualche modo conclusiva, almeno per questa vicenda davvero drammatica della violenza, della distruzione di fatto di un'intera famiglia, del padre e dei suoi figli, e drammatica anche in questa tumulazione che sembra davvero arrivare da altri tempi, una tumulazione prima dell'alba per ragione di ordine pubblico. Alla scena, appunto, al funerale a cui ha assistito il nostro Filippo Veltri, una donna disperata, ovviamente, che piangeva marito e figli insieme. Punto e a capo. Potrebbe essere stato ucciso da un cecchino, secondo le informazioni disponibili, il militare italiano morto ieri in Afghanistan. È accaduto nella mattinata italiana, nel distretto del Gulistan, la provincia di Fara, una delle zone calde, ovviamente, del settore affidato al controllo dei militari italiani, al confine con l'Helmand, una delle altre regioni appunto controllate dai nostri soldati. Il 4 ottobre scorso, proprio nella valle del Gulistan, si verificò l'imboscata in cui morirono altri 4 soldati italiani. Un soldato italiano ucciso proprio nell'ultimo giorno dell'anno che sarà ricordato come il più pesante di tutti quelli trascorsi dalla forza internazionale, appunto, in Asia centrale. Il 3 gennaio del 2010 Brian Bowman, soldato americano, fu il primo di 710 vittime. Questo il bilancio complessivo dei morti tra le truppe della Forza Internazionale di Assistenza alla Sicurezza in Afghanistan, quella che noi conosciamo come l'ISAF. Le statistiche mostrano che nel decennio trascorso, da quando fu lanciata l'operazione, i soldati dell'ISAF deceduti sono cresciuti anno dopo anno. Erano 131 nel 2005 e quest'anno sono dunque arrivati a 710. Il fardello più grande in questo 2010, anche in questo 2010, grava sulle spalle degli Stati Uniti, che hanno perso 497 uomini, mentre la Gran Bretagna ne ha persi 103. Il contingente italiano, arrivato in Afghanistan nel 2004, ha lasciato quest'anno sul campo 12 soldati. Dall'Afghanistan ci spostiamo ora in Libano, un'altra zona, un altro teatro, come dicono i militari, con una forte presenza italiana. Il comandante italiano del settore ovest dell'UNIFIL, che è la forza delle Nazioni Unite appunto in Libano, Guglielmo Luigi Miglietta, fa un bilancio della situazione. Le risoluzioni delle Nazioni Unite, in virtù delle quali ci troviamo oggi ad operare nel sud del Libano, e si pongono tutte l'obiettivo di consolidare la sovranità dello Stato libanese in quest'area affinché possa esercitare il pieno controllo sul proprio territorio. Ecco, possiamo affermare che quello che nel 2006 sembrava essere un obiettivo ambizioso sta diventando giorno dopo giorno una realtà sempre più consolidata. Infatti, se dal 1978 il presidio del confine sud era prerogativa di fazioni armate, oggi l'esercito libanese dispiega un certo numero di brigate tra il fiume Litani e la Blue Line, cioè la linea di ritiro delle truppe israeliane. Ecco, il capillare controllo del territorio operato dai caschi blu e dalle forze armate libanesi ha fatto sì inoltre che si ottemperasse al mandato della risoluzione 1701 di creare un'area libera dalle armi e dalle munizioni. Nell'ultimo anno, infatti, non si sono verificati episodi di lanci di razzi verso Israele, mentre gli incidenti sulla Blue Line sono riconducibili ad incomprensioni tra le parti o ad azioni sconsiderate di singoli, più che dalla volontà di riaccendere il conflitto. punto e a capo. Ancora notizie dal mondo e sono purtroppo notizie preoccupanti quelle che ci portano in Africa, ma prima in Russia, dove si è appena concluso il secondo processo Khodorkovsky. Continua oggi nel tribunale distrettuale di Khmelnytskyi a Mosca la lettura del verdetto del nuovo processo contro l'ex patron della società petrolifera Yukos, Mikhail Khodorkovsky, e il suo socio Platon Lebedev. Ieri i due uomini sono stati proclamati colpevoli di appropriazione indebita di circa 300 milioni di tonnellate di petrolio e di riciclaggio di denaro sottratto al fisco. Uno dei leader del movimento democratico Solidarnost, Boris Nemtsov, ha dichiarato che una nuova condanna metterà la parola fine alle speranze in una vera democratizzazione della Russia. L'avvocato di Khodorkovsky, Vadim Klugvant, ha bollato il processo come farsa basata sulle accuse false e tendenziose. La procura ha chiesto per l'ex uomo più ricco della Russia 14 anni di carcere. Per Khodorkovsky, messo dietro le sbarre nel 2003, ciò significherebbe altri 6 anni da trascorrere nei campi di lavoro correttivo in Siberia. Secondo gli analisti russi e internazionali, il secondo processo sarebbe stato orchestrato dal Cremlino per tenere Khodorkovsky più lontano possibile dalla vita politica russa, almeno fino alle elezioni presidenziali del 2012. Vladimir Sapostico, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Mosca. Questo è un brano famosissimo in tutta l'Africa occidentale. Tikenya Fakoly, nome d'arte di Doumbia Moussa Fakoly di Odien, del nord della Costa d'Avorio, un cantante reggae che racconta, appunto, l'avrete colto nelle parole, il ritornello dice semplicemente: il mio paese va male, il mio paese va molto male. Ecco, una volta non si parlava di cristiani e di musulmani, prosegue il griot, il cantore, come si dice in Africa. Ed effettivamente questa canzone, che è stata scritta ormai 5 anni fa, appare di un'attualità sconcertante, poiché di nuovo la Costa d'Avorio si trova sull'orlo della crisi della guerra civile. In estrema sintesi, cosa accade ad Abidjan? C'è un presidente eletto che attende all'Hotel del Golf, nel centro di Abidjan, e un presidente uscente che non intende lasciare il potere e che si chiude nel palazzo presidenziale, distante forse 4-5 chilometri al massimo. Tribalismo, xenofobia, ivuarité, ancora con le parole di Fakoly. Insomma, la situazione è drammatica, l'instabilità seguita alle controverse elezioni dello scorso 28 novembre ormai trascina il paese sull'orlo del genocidio. Così si esprime il nuovo ambasciatore all'ONU, Youssouf Bamba, Bamba che è stato nominato dal presidente eletto Alassane Ouattara, che l'ha definito come il leader che ha diritto di governare. Questa naturalmente è una posizione, una delle voci di questa situazione estremamente complessa. Il pericolo è che il comandante in capo dell'esercito, il presidente uscente, quindi Gbagbo, utilizzi l'esercito per attaccare l'Hotel del Golf, appunto, dove di fatto si è costituito sotto la protezione delle Nazioni Unite il governo che attende di entrare in carica. Naturalmente noi seguiremo questa vicenda. Intanto un ultimo ulteriore segnale d'allarme. Il Ministero degli Esteri di Parigi proprio ieri ha raccomandato alle famiglie francesi con bambini di lasciare la Costa d'Avorio. Quai d'Orsay ha precisato che il rientro dopo le feste natalizie nelle scuole francesi in Costa d'Avorio, sono molte, una comunità storicamente importante, sarà rinviato a causa della situazione di grave crisi nel paese. Punto e a capo. Da questa mattina l'Italia che naviga in rete si sveglia un po' più libera. Il governo ha infatti inserito nel mille proroghe l'abrogazione di quasi tutto il contenuto dell'articolo 7 del decreto Pisano. Questo significa che da questa mattina non sarà più necessario mostrare un documento d'identità prima di accedere alla rete da un locale pubblico. Inoltre, chi offre un accesso presumibilmente senza cavi da un caffè, da un albergo, da una biblioteca, da un'università e così via, non sarà più tenuto a fotocopiare i documenti degli utenti né a conservare i complicatissimi registri della loro attività online. Insomma, rimane l'obbligo comunque di una richiesta di licenza al questore per gli internet caffè, ma sicuramente una buona notizia per questo inizio 2011 che vede l'Italia riagganciare quello che negli altri paesi europei accade in realtà ormai da tempo. Intanto, sempre a fine 2010, si è concluso anche il nostro viaggio tra le imprese che, nonostante tutto, ce l'hanno fatta a catturare il vento della ripresa. Venti di ripresa. L'Italia che riparte. Finisce oggi il viaggio di Radio 24 attraverso l'Italia delle aziende che hanno superato la crisi drammatica cominciata nell'estate 2007. Da metà luglio abbiamo raccontato ogni giorno, dal lunedì al venerdì, la storia di un'impresa che è tornata ad aumentare ricavi e profitti. Ringrazio la redazione per l'ottimo lavoro svolto, documentando 80 storie di successo che significano posti di lavoro salvati, famiglie che hanno ricominciato a guardare al futuro con più ottimismo, giovani con prospettive migliori. Abbiamo intervistato aziende del Nord-Est, del Piemonte, della Liguria, ma anche del Centro Italia e del Mezzogiorno. Quando per prima Radio 24 ha cominciato a raccontare i segnali di ripresa, sembrava un azzardo. Poi personaggi autorevoli come il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, il presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet, il ministro dell'Economia Giulio Tremonti hanno dichiarato che la ripresa è in corso. La speranza è che diventi sempre più forte. Radio 24 continuerà nei giornali radio e nei programmi a documentarlo. Ecco l'ultima puntata. Il 2010 ha avuto a settembre un più 23,2 per l'esattezza per cento di fatturato in più rispetto a settembre 2009, dopo che c'era stata nel 2009 una caduta di quasi il 20% del fatturato. Callisto Fedon è presidente e amministratore delegato dell'omonima azienda che vanta una lunga tradizione nel settore astucci e accessori per occhiali dal 1919. È una piccola multinazionale, 1535 addetti e stabilimenti in Italia, Francia, Germania, Romania, America, Cina e showroom a New York sulla Fifth Avenue e da poco anche a Hong Kong. Ha radici però nel distretto di Cadore, in Veneto, dove è nata l'occhialeria italiana. Queste le leve strategiche. Beh, intanto bisogna dire che il settore nel suo complesso, quello dell'occhiale, ha avuto una ripresa. Però siamo partiti già da più di un anno fa con un fortissimo processo di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse sia umane che ovviamente finanziarie, dati i tempi, nella gestione di tutto il processo produttivo, e con un forte processo di innovazione, il design e l'offerta al cliente, aprendo, oltre al nostro ufficio in Italia, un ufficio in Cina, proprio per combattere i costi di produzione e i prezzi che attualmente fanno da padrone sul nostro mercato. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo era dunque l'ultimo appuntamento con Venti di Ripresa, che è stato curato da Anna Marino, da Valentina Furlanetto, da Alessandra Tedesco, e che naturalmente trovate nella versione integrale con tutte appunto le puntate realizzate come sempre su radio24.it. Punto e a capo. Ultimi minuti insieme in questo appuntamento di Punto a Capo, che è il primo del 2011, ma racconta piuttosto l'ultima settimana del 2010 appena concluso. Parliamo di calcio, un anno che ha visto in qualche modo la consacrazione di José Mourinho come allenatore di formidabile successo. Proprio ieri i quotidiani sportivi l'hanno premiato con il titolo di uomo sportivo dell'anno, ma è un anno che si conclude, almeno dal punto di vista dell'Inter, con un arrivo che fa tornare grandi speranze in casa interista. Dimenticare Benitez, riportare la macchina indietro nel tempo quando l'Inter era un gruppo invincibile, marcare da subito la differenza con chi l'ha preceduto. Leonardo ha fatto tutto insieme in un giorno solo. La squadra spremuta di Rafa si è trasformata. Questa squadra è fatta, questa squadra c'è, questa squadra non c'è da inventare, questa squadra ha vinto tutto. Il fantasma di Mourinho si è smaterializzato. Tante cose mi sono basato sui suoi pareri. Considero lui un fuoriclasse. Proprio un fuoriclasse. Il mercato, sogno Kakà compreso, ha smesso di essere una priorità. Se trovo il giocatore che crediamo davvero che possa inserire in un certo contesto, che ci possa dare qualcosa, allora sì, ma non perché questa squadra non manca niente. Una rivoluzione con tanto di garanzia sulla possibilità di riaprire il campionato. Sono un uomo libero, lo slogan scelto da Leonardo, non un pirla e nemmeno uno intelligente come José e Rafa, solo uno che a Moratti non poteva proprio dire di no. Questa sfida è una cosa troppo forte, è troppo affascinante, è troppo inaspettata, è troppo sorprendente, che io non potevo dire no. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si è parlato parecchio in queste giornate di tradimento, non tradimento, passaggio dunque da molti anni di Milan all'Inter, dunque alla grande avversaria di sempre. Laura Bettini, che in questi giorni ha condotto Mattino 24, ne ha parlato con alcuni ospiti, cominciando da un milanista doc, Filippo Galli. Nel corpo di Leonardo, è una persona intelligente. Non avrebbe fatto una scelta come quella che ha fatto Leonardo per vendetta contro nessuno. Io sono convinto che non sia una vendetta contro nessun altro, solo ripeto, un'opportunità di lavoro che è capitata a Leonardo per tante situazioni che si sono venute a trovare e lui ha accettato, insomma, ecco, io nulla di più, capisco il sentimento di alcuni tifosi che erano molto legati a Leo, era normale perché proprio era una persona solare, una persona che ha fatto bene qui da noi, però ecco, c'è da capire anche questa sua scelta. Filippo Galli, direttore del settore giovanile del Milan, andresti a dirigere il settore giovanile dell'Inter? Preso così alla sprovvista? No. Direi che qualcosa di simile ci dirà Evaristo Beccalossi, vero? No, però ti faccio io una domanda, Filippo. 5 milioni di euro all'anno dirigeresti il settore giovanile dell'Inter? No, ma non è una questione. Non è questione di soldi? No, ma la penso così. Cioè, nel senso che chi nasce, cioè Filippo è un uomo Milan da una vita. Credo che Leonardo sì, ha una storia con Milan, però è stato anche un giramondo. E è un personaggio che col calcio di oggi, insomma, lo puoi collocare in qualsiasi situazione, anche se ha avuto delle esperienze forti con Milan. Io mi aspetto che faccia grandi cose, non ho nessun tipo di prevenzione, anzi, sono sicuro che farà ritornare la nostra squadra a cercare appunto di fare questa rincorsa sul Milan. Io non andrei mai al Milan comunque, no? Evaristo l'ha detto più di una volta. No, io no, mai poi mai. Ma un'altra squadra che non fosse il Milan l'avrebbe presa in considerazione? Ma io sì, io ho fatto i miei anni migliori, insomma, i 7 anni all'Inter sono stati determinanti, ma poi dopo quando vai anche in altre squadre, quando tocchi il cielo diventa dura poi provare altre sensazioni. Diventa un lavoro, ci vai, però cambia le cose. Ma non c'è più niente oggi che sarebbe, e lo chiedo a tutte e due, da considerarsi un tradimento, cioè un Totti che passa alla Lazio. È un vero tradimento oppure manco quello? Ma io credo che neanche Totti possa mai prendere in considerazione il fatto di passare alla Lazio. Come diceva Evaristo, credo che poi sia sempre una questione personale, soggettiva, di coscienza, insomma, se vogliamo. Ecco. Però ci sono giocatori che hanno ha avuto una certa storia, un trascorso rossonero in questo caso. Io ad esempio mi viene in mente Baresi, mi può venire in mente Van Basten, lo stesso Maldini, ecco, mi sembra davvero difficilissimo, che impossibile che possano, ecco, attraversare, come si dice, il naviglio, così come ha detto Evaristo, che per tutti nella coscienza che è popolare davvero è interista, insomma, ecco, penso che neanche si possa prendere in considerazione un evento del genere. Punto e a capo. tempo di bilanci per il cinema, non solo di fine anno. Ne parla Gianni Canova nel suo Cinemania 10 anni 100 film, il cinema italiano nel nuovo millennio, l'intervista della nostra Marta Cagnola. È una scelta che nasce da una mia convinzione maturata nel corso di questi 10 anni di assidua frequentazione del cinema e dei film italiani in particolare, convinzione che il cinema italiano di questo decennio, il primo decennio del nuovo millennio, non fosse affatto male e comunque che fosse meglio, molto meglio di quanto non, in genere non scrivessero i giornali, non dicessero le televisioni. Diversa cosa il pubblico, perché la mia impressione è che il pubblico in questi 10 anni abbia ritrovato un rapporto amichevole, di simpatia reciproca con il cinema italiano. C'è una frase fondamentale in questo film, in questo libro, nella quale tu parli della maledizione del neorealismo, come se il cinema italiano avesse un peccato originale o quasi originale che continuiamo a scontare. Ecco, più che, vuol dire, maledizione del neorealismo, che è una formula, come dire, che a me pare efficace dal punto di vista giornalistico, però un po' semplificatore come tutte le formule, forse avrei dovuto dire meglio maledizione della pretesa che il cinema debba essere uno specchio che riflette la realtà. Cioè, sulla base di una malintesa, secondo me, interpretazione di quello che fu storicamente il neorealismo, da molte parti si continua a pensare che il cinema debba essere o debba avere come primo requisito fondamentale la verosimiglianza, la capacità di essere rispecchiante, di essere specchio. Io sono convinto che il cinema non sia specchio, che non lo sia mai, sono convinto che il cinema sia più che nel regime dello specchio, in quello del simulacro, cioè il cinema è un artificio, è un artefatto, filmare vuol dire inquadrare, inquadrare vuol dire escludere, vuol dire tagliare fuori una parte del mondo e metterlo in scena in un certo modo. Quindi da troppo tempo si continua a pensare che i film siano belli o importanti perché rispecchiano la realtà, cosa che secondo me non è assolutamente vera. I film sono belli e importanti quando trovano una forma capace di farci accedere in un modo nuovo, sorprendente, spiazzante, suggestivo, coinvolgente al mondo e alle rappresentazioni del mondo che ci diamo quotidianamente. In questi 10 anni, dal tuo punto di vista, l'Italia ha affrontato un qualche tipo di evoluzione? L'Italia è diventata l'Italia in questo decennio dei reality show. Il cinema italiano è diventato un oggetto sempre più guardato con sospetto e con diffidenza dall'establishment politico-giornalistico mediatico, e forse anche per questo, perché si è trovato ad essere meno assistito, meno coccolato, meno vezzeggiato, meno accarezzato, meno coccolato, ha ritrovato per lo più voglia di venire fuori, di emergere, di tornare ad avere il ruolo, l'importanza, la funzione che aveva in passato, che a me sembrano molto, molto interessanti. Ripeto, proprio perché forse il cinema ha perso in questo decennio la centralità anche nei percorsi di produzione dell'immaginario che aveva avuto in precedenza. Ritorno in grande stile agli anni 80, gli anni in cui si ascoltavano Nade, Gazebo, Mike Oldfield. Oggi è tutto diverso, ma per qualcuno eternamente giovane, almeno nei film, insomma, torna la voglia di divertirsi come allora, quando Carlo Vanzina girava a Cortina, Vacanze di Natale, Il Tormentone, Primigenio, che a settembre era stato festeggiato addirittura alla Mostra del Cinema di Venezia. Jerry Calà interpretava Billo, pianista di nightclub. A distanza di 27 anni, Calà è tornato a Cortina. Ormai lì siamo nel mito. E allora io, visto che anche l'intelligenza quest'anno si è accorta di questi comici, che poi sono quelli che restano e che fanno la storia, allora io, visto queste celebrazioni, ho detto: allora quest'anno, siccome io vado sempre comunque in vacanza a Cortina, adesso quest'anno allora voglio fare di nuovo Billo che canta quelle belle canzoni di vacanze di Natale. La cosa sta avendo molto successo e stiamo facendo veramente delle serate belle, ricordando quei magnifici anni 80 che ormai sono tornati. Forse perché sono periodi difficili, c'è anche un po' di voglia di riscoprire una leggerezza che ci ricordiamo dell'epoca. Guarda, sta succedendo la stessa cosa che successe negli anni Ottanta, quando noi con Sapore di Mare abbiamo rilanciato gli anni Sessanta. Come sempre, nei momenti un po' critici viene voglia di pensare agli anni che avevano più entusiasmo, come gli anni Ottanta, no? Gli anni degli Yuppies, gli anni di questo grande boom economico. E come una volta i film che incassano sono solo le commedie, i film comici, quindi c'è grande voglia di divertimento e di distrazione un po' dal circo, voglio dire, che ogni giorno ci viene proposto in televisione, da, siccome parliamo di circo, dagli animali della politica, ecco. Qualche giorno fa, parlando con Massimo Boldi, lui ha detto che forse sarebbe il momento di rifare Yuppies, o meglio, guarda, di andare a riprendere e vedere che fine hanno fatto quelli. Che si guarda, con Massimo è già qualche anno che diciamo, ma facciamo sto film, che fine avranno fatto questi Yuppies? Io sono d'accordo, se senti Massimo, lui lo sa che io sono disponibile, adesso bisogna ripescare Greggio, De Sica, che forse è il più imprendibile, perché in questo momento è il re del cineparetone, ma insomma sarebbe una bella operazione che secondo me sbancherebbe al cinema. Prime uscite cinematografiche del 2011. Nella sfida natalizia dei film arriva Il terzo incomodo. Dopo i 14 milioni di incasso del primo film arriva l'opera seconda di Checco Zalone. Che bella giornata, uscita prevista per il 5 gennaio. E Checco Zalone, al microfono della nostra Marta Cagnola, inizia da una missione. È un momento drammatico, specialmente quello che sto vivendo in questo momento. Cioè, avere a che fare con una esimia critica come te, che magari è anche costretta a dire sì, complimenti, ma va, dice ma che cagata, ragazzi. E sottoporsi al giudizio dei critici è una cosa atroce, una cosa difficile da sopportare, però. Critici che subito hanno trovato anche da ridire, hanno detto la commedia politicamente scorretta, e ti sei anche dovuto difendere da delle cose pesanti. No, io non mi sono dovuto difendere dall'accusa di politically incorrect. Io voglio essere politically incorrect, però è la direzione in cui va la scorrettezza, che non è quella dell'Islam o degli altri, e a noi italiani, prendo per in culo noi italiani, quando dico che quando gli chiedo se abitano in Islam, in realtà io non offendo l'Islam, offendo me stesso. Solo un ignorante non sa che l'Islam è una fede e pensa che sia un luogo geografico, insomma. E poi dici anche delle cose pesanti, le fai dire a Rocco Papaleo? Sì, quelle sì, in Google, ho detto io, in sceneggiatura lo devo dire io, però è la più bella battuta del film. Guarda che i comici sono gelosissimi, di questo me ne vado fiero, quando uno fa il capo comico, dare la battuta più, perché è la battuta più bella del film, cederla ad un altro è difficile, però io l'ho fatto, sono un suo fan, lo stimo tantissimo, tanto da imparare da lui, e quindi quella cosa che probabilmente causerà qualche, diciamo, voce che si leverà in favore del patriottismo e del politically correct, l'ho fatta dire a lui. Beh, così, intanto la dice lui. Senti, è vero che tutto nasce da un'idea? Cosa farebbe un terrorista se si trovasse di fronte ai meridionali? È così? Sì, l'idea madre di Gennaro Nunziante, che è il regista. Poi ci abbiamo lavorato insieme, è stato un lavoro durissimo, perché avvertiamo il peso di aver fatto un successo di botteghino così inaspettato come quello di Cado dalle nubi. E molti ci dicevano: senti, fai una cosa, fai Cado dalle nubi 2 e vai sul sicuro, però non ci andava di prendere in giro il pubblico, perché là diventi paraculo. Ho trovato la formula, non lo so, speriamo che ci danno ragione gli incassi. C'è una scommessa col produttore, lui punta una cifra molto alta. Tu cosa ne pensi? Ma io, guarda, a me mi hanno già pagato tutto, e poi sono l'unico stronzo che c'ha un contratto che non dipende dall'incasso, cioè se incassa tanto io non ci guadagno niente di più, però è la vanità, poi ti incontri con gli altri, sai, il fatto di andare a testa alta, io ho incassato tanto, sicuramente è una cosa che mi fa sperare che il film vada bene, sì, ma lui dice un sacco di cazzate, cioè stai a sentire a lui... No, non lo sento, anche perché le previsioni del primo film furono sbagliate all'inverso. Lui disse, 4 milioni ne facciamo, ne abbiamo fatti 14. Siccome ha esagerato, quindi io tocco ferro per non dire un'altra cosa. E con questa carrellata cinematografica abbiamo concluso questo nostro primo appuntamento del 2011. Da parte mia, da parte di Fabio Cantadori, questa mattina in regia con me, naturalmente l'augurio di un ottimo 2011. Punto a capo, torna la prossima settimana.